Componimento 47° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Io sentia dentro al cor già venir meno gli spirti che da voi ricevon vita, e perché natural mente saita contra la morte ogni animal terreno, largai il desio ch'i tengor molto a freno, e misil per la via quasi smarrita, però che dí e notte indi m'invita, ed io contra sua voglia altronde l meno. E mi condusse vergognoso e tardo a riveder gli occhi leggiadri ond'io, per non esser lor grave, assai mi guardo. Vivrommi un tempo mai ch'al viver mio tanta virtute ha sol un vostro sguardo, e poi morrò s'io non credo al desio. Fine del componimento.